Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. Siamo arrivati all'ultima puntata di Romanzi in valigia, ahimè, insomma, ci lasceremo oggi almeno per questo appuntamento del sabato alle 14, ma il cacciatore di libri continua come sempre alle 6.45 del sabato mattina e alle 22.05 del sabato sera. Dunque, ultimo appuntamento con Romanzi in valigia, magari per chi deve ancora andare in vacanza e perché no, anche per chi è tornato e ha voglia di leggere due libri divertenti, insomma, interessanti. Ho scelto due libri di autori che sono presenti al Festival Letteratura di Mantova, perché lo ricordiamo, si sta svolgendo il Festival Letteratura di Mantova che si concluderà domani, domenica sera, con l'intervista diciamo pubblica a Michael Cunningham. Allora, gli autori di cui vi parlo oggi sono Piersandro Pallavicini e Stefano Benni. Partiamo con Piersandro Pallavicini, autore di Una commedia italiana pubblicato da Feltrinelli. Un romanzo ironico e un po' vintage. Sentite un po'. Una commedia italiana, perché questo romanzo, al di là della trama che contiene un riferimento al cinema e alla commedia italiana, ha delle caratteristiche della commedia cinematografica italiana ed è una commedia. Quindi il richiamo è chiaro, e che sia anche demodé va bene, perché deve buttare, gettare, no, il lettore subito in quella atmosfera che caratterizzava i nostri anni 60. Infatti ci sono tantissimo gli anni 60 sia in Italia che come iconografia anche a livello internazionale, insomma. Anche in Costa Azzurra, per esempio, un altro dei miei fetici, non posso assolutamente mancare. Demodé, Jaguar e Costa Azzurra, queste sono le caratteristiche che si inseguono nei miei romanzi più recenti. E qui sì, ecco, c'è questo messaggio che porta il lettore immediatamente dentro l'atmosfera degli anni 60 e della commedia sofisticata, perché questa è l'idea, no? Quindi questo cameriere in frac, ma pattini sul ghiaccio, e un vassoio che porta del gin, del seltz e un bicchiere probabilmente che contiene del whisky, è sintomatico di quello che trovi qui dentro, cioè qualche cosa che ti spiazza leggermente, perché non ti aspetteresti un cameriere in frac, no? sui pattini. Ghiaccio. L'atmosfera vuole essere evocativa di una certa quale eleganza, ma allo stesso tempo c'è la gag dietro l'angolo: questo cameriere potrebbe inciampare una pattinata più in là. No, il romanzo, come dicevo, è veramente ironico. Le tue ironie l'avevo già conosciuta in altri romanzi, come per esempio il romanzo Per Signora, ma devo dire che qui ho riso proprio, insomma. La voce narrante, la protagonista, anzi diciamo la voce narrante perché in realtà sono tanti personaggi, la voce narrante è Carla, una cinquantenne, docente di chimica, anche tu sei docente di chimica, ma tu non sei in menopausa, lo sottolineo perché questa Carla ha l'abilità di sottolineare sempre questa cosa, che da quando è in menopausa, insomma, ci sono tutta una serie di problemi che lei avverte. Come ti sei immedesimato nella Carla? Beh, per la parte chimica è facile, insomma. Per l'età anch'io 50 anni circa come lei, per la menopausa è stato un po' più difficile, insomma, qui ho dovuto lavorare come fanno gli scrittori che si informano, no? Prima di costruire personaggi, prima di raccontare luoghi dove non sono mai stati, qui ho spiato mia suocera, confesso. O più che spiare mia suocera, ho chiesto a mia moglie notizie sulla condizione di menopausa di mia suocera, e lei senza pietà per sua madre me le ha raccontate e quindi le ho usate per cercare di dare verosimiglianza. Però insomma non è troppo difficile, perché che cosa significa la menopausa tutto sommato agli occhi dello scrittore? Significa un problema di tipo fisiologico che devi affrontare quotidianamente, che è il segno del tuo invecchiamento. Quindi io non avrò la menopausa, ma insomma avrò i miei problemi da mettere. Sì, è quasi ossessiva, insomma, la Carla con questa cosa della menopausa, perché insomma la vive male un po' questo. Ma io credo che il suo continuare a sottolineare, a stigmatizzare la menopausa, i suoi problemi, serva a allontanare questi problemi, a scherzarci sopra, perché poi fa questo, ci ride sì, sopra. Sì, assolutamente. Allora, Carla è un personaggio veramente molto, molto ironico. Allora, i personaggi che girano intorno a lei, il padre. Padre è veramente un personaggio a tratti surreale, è un ex imprenditore caseario, molto ricco. C'è una descrizione che a un certo punto la voce narrante, quella di Carla, fa di suo padre. Carla dice, pensa, Comunque, quale dottore? Mio padre è solo un perito chimico, anche se pensa di saperne più di me dell'ottolina messa insieme. D'altronde ha letto un saggio di Paolo Maffei e pensa di saper tutto di astronomia. È socio del FAI e dunque padroneggia l'intera storia dell'arte. È stato abbonato 7 anni a selezione e perciò è un esperto anche di letteratura. A Solaria lo chiamano il dottore dal 67, quando era arrivato in cabriolet, giacca bianca e fularino, e aveva sfoderato il libretto degli assegni per comprare il terreno su cui avrebbe costruito la villa. Insomma, è un po' anche uno sborone questo papà di Carla. Come direbbero a Bologna, come direbbero in Emilia. È un termine che purtroppo in Lombardia non conosce equivalente, insomma ce n'è, ma sono un po' troppo volgari per essere usati. Comunque quello, insomma, una persona che intanto racconta, ma anche vive una vita che è larger than life, no? Più grossa della sua vita. E poi ama raccontare cose che non si sa quanto siano verosimili o quanto siano inventate, che però colorano il suo stesso personaggio, anche i suoi occhi, anche gli occhi di chi gli sta vicino, di un'ulteriore aura di leggenda. Non so, per esempio, questa, ecco, l'amicizia con Gunther Sachs. Gunther Sachs, che per chi non lo conoscesse è stato il playboy par excellence negli anni d'oro della Costa Azzurra, è stato per 2 o 3 anni, credo, sposato a Brigitte Bardot, era uno dei... Quindi questo è un personaggio vero, un personaggio vero che era uno degli eredi della fortuna della Opel, per intenderci, quindi un personaggio che sicuramente aveva del suo, ma anche di cultura molto elevata, oltre che essere un bellissimo uomo, se uno va a vedere, insomma, le foto. Il padre di Carla millanta questa amicizia e anche addirettura... Ma non solo, appunto, c'è un celebre episodio che riguarda Brigitte Bardot e Gunther Sachs, riportato da tutti i giornali dell'epoca, ancora oggi, poi quando Sachs è scomparso un paio d'anni fa. E cioè che per far innamorare Brigitte Bardot, Gunther Sachs avesse fatto sorvolare la villa di Brigitte Bardot, la Madraga, a Saint-Tropez, da un elicottero che ha scaricato sulla Bardot, che prendeva nuda il sole nel suo porticciolo, qualche quintale di rose rosse, mentre lui arrivava sul suo motoscafo Riva, naturalmente, in frac e mantello al porticciolo. E questa è la storia, no? Ebbene, Alfredo Pampaloni sostiene non solo di essere stato amico di Gunther Sachs, ma anche di avergli suggerito questo approccio per conquistare Brigitte Bardot. Beh, ma pensa anche di aver suggerito a un'altra azienda casearia lo slogan "Galbani vuol dire fiducia". Insomma, è un uomo che vive al di sopra delle sue possibilità, ma pensa anche di essere... ha un grande ego. Ha un grande ego come tanti ottantenni di quella... No, di quella fatta, diciamo, di quella generazione. Insomma, quella generazione prende una fetta di italiani enorme, naturalmente, ma se andiamo a vedere l'imprenditore di successo, colui che è diventato ricco negli anni del boom, che si è fatto da sé, no? Qui perito chimico, poi diventa industriale, si costruisce ville, va in giro in decapottabile, in spider, insomma un uomo che ha fatto la propria fortuna e anche quella dei figli. Ecco che qui troviamo queste persone che ancora oggi, chi ha ancora avuto la fortuna di sopravvivere, sono terribilmente piene di sé e a quest'età sono diventate simpatiche, per questo essere talmente piene di sé. Così simpatiche, insomma, fa anche degli scherzi quest'uomo, diciamo che non è poi amato da tutti, insomma non è simpatico a tutti quest'uomo. Altro personaggio veramente bellissimo secondo me è l'Ottolina, L'Ottolina, come si dice in Lombardia, Milano, con l'articolo davanti ai nomi personali, perché la migliore amica appunto di Carla, e c'è un rapporto di una tenerezza immenso, cioè Ottolina è l'amica che tutti vorrebbero avere nella vita. Assolutamente, anch'io vorrei avere un'amica così, forse per questo l'ho messa nel romanzo e ci ho insistito tanto. Ma insomma, Ottolina è il personaggio, ti dirò, intorno a cui questo romanzo è stato costruito, è nato. Ottolina è una donna deliziosa, di grandissima intelligenza, di ironia profonda, un senso di humor meraviglioso, ha uno sguardo ricco di pietas sul mondo, quindi è anche una persona buona. Ma è molto brutta, questo è il suo problema. È molto brutta, ma proprio tanto, non so, è bassa, è grassa, ha i denti in fuori, ha gli occhiali spessi, ce le ha tutte, povera donna. E la cosa che le pesa tanto è che purtroppo il genere maschile non esita a sottolineare questa sua bruttezza, anzi a lanciargliela in faccia, no? A riflettergliela in faccia. Ecco, nonostante questo è una persona deliziosa, insomma, che ha saputo sopportare, cristianamente verrebbe da dire, anche se da buona scienziata è assolutamente atea, e questo la rende appunto il personaggio centrale, perché volevo raccontare proprio di questa difficoltà che le donne meno belle subiscono quotidianamente, cioè una sorta di discriminazione anche nel minimo, nel quotidiano, in cose piccole e stupide, negli atteggiamenti, se vuoi, da parte del genere maschile, che tratta in un modo le donne belle e in un altro, non molto bello, le donne brutte. Tutta la vicenda, diciamo, di questo romanzo, una commedia italiana, si svolge in estate, un paesino di montagna, perché il capostipite, appunto, Alfredo Pampaloni, ha richiamato a sé la figlia, l'amica della figlia, il figlio scemo, diciamolo proprio così, perché così lo definisci, che vive in Inghilterra con moglie e figli, e qui succedono una serie di cose, perché c'è un problema di eredità, il figlio, insomma, vorrebbe, sta facendo i conti in tasca al padre. Ecco, diciamola così. Poi ci sono una serie anche di atti di teppismo nei confronti della casa. Poi quest'uomo non è così amato, appunto. O così sembra. O così sembra. Perché ci sono delle... Ecco, questo è il motore della trama del romanzo. Insomma, ci sono tre misteri che vengono risolti, che vengono posti nelle prime pagine e poi pian piano risolti nel corso del romanzo. Uno di questi è ciò di cui abbiamo parlato poco fa, e cioè il passato di Alfredo Pampaloni, che spariva durante tutte le estati negli anni 60 e nei 70 dicendo di andare appunto a Saint-Tropez o Forte dei Marmi, Ockstad, e chissà, lì cercava un'auto, una coproduzione per un suo film mai realizzato, chissà se era vero, faceva chissà cos'altro. Questo lo si scoprirà leggendo. Poi si scoprirà anche perché ha convocato questi figli insieme dopo tanti anni che non si ritrovava l'intera famiglia Solaria, e subito li porta da un notaio per cedere loro la proprietà dei suoi immobili più importanti. Cosa sta succedendo? Perché improvvisamente decide di cedere ciò a cui è stato attaccatissimo? E mentre sono a Solaria succede anche che vengono, diciamo così, attaccati con piccoli atti di teppismo da non si sa chi, forse qualcuno del paese o forse qualcun altro, no? Sembra di entrare in un cane di paglia, la Sam Peckinpah, no? dove in Cornovaglia gli abitanti del paesino se la prendevano con Dustin Hoffman e la sua famiglia. Ma chissà cosa sta succedendo davvero. Questa è la terza cosa che si scoprirà solo leggendo. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. Il secondo romanzo di cui vi parlo oggi è quello di Stefano Benni. Anche Benni è presente al Festival Letteratura di Mantova, che si conclude domani. Si intitola Pantera, anche questo pubblicato da Feltrinelli. In realtà non è un romanzo, sono due racconti. Benni diverse volte ha scritto racconti, insomma, come Bar Sport, la raccolta di racconti sua più famosa, e, oltre ad aver scritto romanzi. In questo Pantera però ci sono solo due racconti. Allora, la prima cosa che gli ho chiesto è se ha avuto subito l'idea di scrivere due racconti oppure se ne ha scritto uno che dà appunto il titolo alla raccolta Pantera e poi l'altro è venuto un po' da sé. Sentiamolo. Ho pensato al primo. Il primo era inizialmente era un'idea di trattamento, di sceneggiatura. Poi ho pensato che poteva diventare un racconto lungo, un romanzo breve, ognuno lo vede come vuole. Per me è un racconto lungo, un racconto, è una storia, ecco, basta. Poi mi è venuta voglia di scriverne un altro e in qualche modo ho capito che l'eroina del secondo racconto c'era un modo di farla incontrare, un modo strano, perché in fondo è come se l'eroina del secondo racconto, se la prima è una guerriera di 30 anni, la seconda è una guerriera di 12 anni, però crescendo diventerà, insomma, una guerriera come... Quindi si incontrano in un modo che non sto a svelare, perché si incontrano senza però sapere che si sono incontrate. Partiamo da Pantera. Pantera è appunto una ragazza, non viene definita l'età, fra i 20 e i 30 anni si dice, una giocatrice di biliardo, molto molto brava, sensuale, leggerei proprio il modo in cui tu la descrivi, snella, flessuosa, pallida, tutta vestita di nero, dal giaccone di cuoio al maglione a collo alto, ai pantaloni e agli stivaletti, nero il caschetto di capelli, neri gli occhiali da diva. Unico colore acceso in quella ben studiata e affascinante tenebra, il rossetto carminio della bocca. Pantera è una donna affascinante con un passato molto doloroso. Perché gioca a biliardo? Che cosa rappresenta il biliardo nella sua vita? Tu sai che se io sapessi spiegare certe cose non ne scriverei. però credo che la voce narrante a un certo momento lo dica, no? Che cercava una specie di riscatto, insomma. Avendo avuto un'infanzia molto dolorosa, lei ha trovato un rifugio, siccome viveva in un bar con uno zio che era un tipaccio sicuramente. La notte lei si svegliava, aveva paura proprio a dormire con questo, vicino a quest'uomo, e dall'età di 7-8 anni giocava a biliardo tutta la notte. Questo le ha dato questa grande abilità. Quello che vuole, in un certo senso, è sfuggire a questi bruttissimi ricordi e in qualche modo sfidare, insomma, trovare il coraggio di andare avanti. A un certo punto la voce narrante, che poi è un ragazzino di 15 anni che lavora, fa un po' il tuttofare in questo locale dove si gioca a biliardo, dice che per Pantera giocare a biliardo è una forma di vendetta. No, questo lo lascio al lettore. Comunque è ovvio che lei affronta un mondo maschile, anche se il mondo delle sale biliardi era un mondo maschile, ma non ostile alle donne, insomma. Era gente abbastanza semplice, io li chiamo gli aristocratici più poveri del mondo. Però non era, c'erano anche donne, insomma, era un ambiente dove entravano anche donne, magari donne con specialmente prostitute, scommettitrici, insomma. Era un luogo dove andava gente che aveva qualche, insomma, aveva dei conti in sospeso con la vita, si rifugiava in questa specie di piccolo inferno per sopravvivere, e quindi c'era anche, aveva anche una certa nobiltà nell'affrontare. E lei va a sfidare proprio i più bravi, insomma, proprio il concetto del western, del torneo cavalleresco. Se è vero che come donna nessuno all'inizio crede che sia così brava, dopo diventa una dea, un mito, insomma, in qualche modo diventa la dea di questo luogo, quindi imparano, ma si innamorano tutti di lei, ecco. E anche Stefano Benni come scrittore si è innamorato un po' di questo personaggio. Sì, beh, mi sono innamorato di parecchi miei personaggi femminili, anche maschili, insomma, però Pantera è, in realtà è un mio ricordo di infanzia. Esisteva una giocatrice molto brava, però non era la più brava di tutte, non era così affascinante. Io l'ho vista solo una volta, però era molto conosciuta, perché in quel mondo lì le giocatrici di biliardo erano veramente poche. E quindi io l'ho fatta diventare una dea, perché in realtà quello che manca a questo luogo molto sotterraneo è un po' la speranza. Credono tutti nella sorte, quindi nella sorte c'è, comunque nell'alea c'è la speranza di vincere qualcosa, di uscire da lì, di fare qualcosa di trionfale, una grande vittoria. E se ne accorge questo ragazzo, dice: qui manca una dea, una divinità. È come se la aspettassero, quindi quando arriva tutti in qualche modo sono felici. Non è che gli dispiaccia che una donna batta gli uomini, diventa la loro divinità e tengono per lei, insomma. Nelle partite non è che tengono per l'altro, tengono per la loro dea, diventa proprio per loro una specie di speranza, ecco, una speranza di bellezza, non soltanto bellezza, ma anche la bellezza delle geometrie, del talento, insomma, che appartiene questa volta a una giocatrice, non a un giocatore. Pantera è una delle poche giocatrici di biliardo che può giocare sui tre tavoli, diciamo, più importanti di questa grande sala di biliardo. Ci sarà una sfida finale di cui ovviamente non diciamo troppo, altrimenti togliamo, come dire, non solo il gusto del libro, ma proprio il significato, perché poi è la fine che dà il senso a tutta la storia. Il secondo racconto invece cambia completamente atmosfere, cioè mentre nel primo c'è della sensualità, della passione, quasi del noir, c'è una fascinazione, un mistero, il secondo racconto la protagonista è una bambina di 12 anni, Aiji, che è completamente solare, cioè nel secondo racconto si vedono e si sentono sensazioni e sentimenti buoni, l'amore, l'affetto per suo padre e tante altre cose. Come mai li hai volute creare proprio così, come se fossero uno il rovescio della medaglia dell'altro, almeno apparentemente, anche fisicamente, perché la descrizione di Aiji è come di una ragazzina un po' goffa, a meno che non stia in mare naturalmente, ma quando sta fuori dal mare sembra quasi una ragazzina goffa, insomma non è Pantera. No, ma non le ho viste come opposte, ma quasi come due tonalità della bellezza, ombra e luce. Quindi se il primo racconto è tutto sotterraneo, nel secondo, ad esempio, c'è il mare che è un abisso, quindi in realtà Aishi è molto attratta dall'abisso, è una piccola sirena, ecco. Quindi direi che il concetto è proprio quello della sirena. Sono due sirene, cioè sono per metà donne e per metà un mistero. Quindi i buoni sentimenti, insomma, anche Aishi deve lottare per sopravvivere. Diciamo che è evidente, lei sa, o crede di sapere perché combatte per il padre che è malato e per il mare che lei adora. Però in qualche modo anche lei è da un'altra parte, è una sirena, non appartiene al mondo degli uomini, perché non se ne vuole andare dal mare, non vuole diventare una ragazzina alla moda che va in città, difende questa sua diversità. Poi nel finale, non c'è un finale, si dice tante cose potrebbero succedere a Aishi, e tra queste potrebbe anche essere che lei diventi una ragazza assolutamente normale col fidanzato, però in qualche modo lei è la luce è quella del sole, ma la vera dimensione, ci sono le stelle, che nel caso di Pantera sono stelle sintetiche, sono le lampade, e c'è molta la dimensione dell'abisso. Lei ama molto andare sott'acqua, trattenere il fiato, quindi anche lei ha una sua zona d'ombra, insomma, quindi le vedo più come complementari. E infatti di Aishi si dice è in grado di stare più di un minuto sott'acqua, come se fosse il suo elemento naturale, e invece stare sulla terraferma quasi le provoca un fastidio, insomma. Sì, lei ha una grande... anche lei ha un talento, ha qualcosa di speciale, sa pescare, che è una cosa vera, insomma, perché... è ovvio che questo libro è molto ispirato alla Sardegna, anche quello è un mondo molto maschile, però ci sono delle ragazze che da giovani seguono i genitori a pescare, è una vita durissima, però ho conosciuto, insomma, di queste sirenette che stanno sott'acqua 2 minuti, 3 minuti, insomma, è il loro gioco, ma è anche una specie di talento che hanno. A un certo momento lei dice: chi ti piace nella vita? Dice: mi piace sapere chissà da che parte tira il vento. Quindi per questo, se nella metropoli valgono certe abilità, per lei i valori sono molto diversi. I romanzi di cui vi ho parlato oggi erano Una commedia italiana di Pier Sandro Pallavicini e poi Pantera di Stefano Benni, entrambi pubblicati da Feltrinelli. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata di Romanzi in Valigia, che comunque trovate in podcast e sul sito radio24.it. Stasera, dopo il GR delle 22, c'è l'appuntamento consueto con Il Cacciatore di Libri, questa sera dedicato esclusivamente al Festival Letteratura di Mantova. Grazie in regia a Carmelo Lauricella, una buona lettura da Alessandra Tedesco.